stiamo per iniziare. Faccio una premessa, no? Nel senso che questa iniziativa era già in programma 3-4 mesi fa. Poi però tanti motivi è slittata ad oggi, per cui devo sottolineare che alcune tematiche magari non sono aggiornate, perché appunto anche l'ordine del giorno è rimasto quello di 2-3 mesi fa. Cioè mancano le ultime novità da dicembre in poi, che posso riassumere in una vittoria al TAR delle cure domiciliari, poi l'introduzione della vaccinazione di massa tutto spiano, l'obbligo vaccinale che c'è stato, che è stato poi trasformato in legge 4-5 giorni fa e che vale solo per il personale sanitario a contatto con ovvi motivi chi lavora nei reparti piuttosto che sul territorio, che comunque abbia contatto con degli utenti ammalati. Quindi questo è un obbligo vaccinale che riguarda solo loro per adesso. E quindi mancano tutta una serie di problemi che sono venuti dopo. Quindi anche il video che vedremo dopo alla fine sarà, magari conterrà delle notizie un po' datate, perché appunto l'intenzione era di fare un anno di esperienze col Covid con lo stato di agitazione del personale del San Paolo e del San Carlo, che quindi è durato dal marzo 2020 al marzo 2021. Quindi seguiamo un po' questa traccia e vediamo un po' se ci sono altre novità, per magari più interessamento per parlare delle problematiche nuove, lo facciamo. Sta arrivando Andrea adesso in questo momento, quindi vi do un po' la scaletta degli interventi. Ovviamente dopo gli interventi ed eventuale discussione, se ci sarà, dopo è previsto per chi vuole anche mangiare qualcosina, e poi dopo vedere questo video che è stato fatto dall'Usi Sanità e Cox 18 su questa appunto vertenza di un anno di Covid all'ospedale San Paolo San Carlo, con ovviamente riferimento poi anche a altre strutture ospedaliere, perché appunto il problema che abbiamo vissuto non è che abbiamo vissuto solamente noi come ospedali aziendali, ma l'hanno vissuto tutte le strutture sanitarie pubbliche e private. Quindi siccome Andrea è arrivato adesso, preferisci essere primo o vuoi riprendere fiato? Un attimo, riprendo fiato. Una gana all'ultimo. Per cui è previsto, quando parlerà Andrea, che lui è dell'ambulatorio medico popolare, in più anche dirigente medico dell'ospedale San Paolo San Carlo, poi ci sarà, e che parlerà un po' della riforma regionale che sta per essere approvata, nel senso che di questi giorni la presentazione, la bozza in consiglio regionale, che però ce ne spiegherà lui qualcosina, magari anche Visconte, che appunto Visconte è un medico generale di base, quindi medico della mutua, che adesso è pensionato e quindi è... vabbè, le cariche sono quelle. Poi ci sarà Gianni, un infermiere dell'ospedale San Carlo San Paolo, e io che sono un po' in doppia veste del Conchetta e del San Paolo lo stesso. Quindi, e poi ci sarà, dopo l'intervento dei due, di Andrea e di Visconti, ci sarà un collegamento con Bologna, dove ci sarà un intervento dell'assemblea lavoratori combattivi, che ci sarà, quindi un collegamento in diretta che vedremo qui sullo schermo. Quindi dopo la cena, se volete, poi ci vediamo il filmato, che dura 42 minuti, è un po', è anche carino il finale, quindi, che parla anche di quello che mangerete voi stasera, lo stocco. Quindi chi vuole dei due? Se Ma appunto io per il lavoro che ho fatto parlerò della medicina del territorio, che è un po' la mia, chiamiamola, specialità. Io con gli ospedali ho avuto poco a che fare, quindi poi ci penserò lui a dire. E dunque, per la medicina del territorio intendiamo tradizionalmente, storicamente, quella rete di distretti, di ambulatori, di medicina scolastica, consultori familiari, centri vaccinali, che diciamo in una fase del welfare precedente, diciamo, chiamiamolo così, avevano un certo sviluppo, insomma. Poi c'erano i medici di base che in qualche modo ancora avevano una funzione di cura, di diagnosi e cura quantomeno. E tutto questo, ho fatto anche medico vaccinatore, ho fatto medico scolastico, insomma ero dentro questa struttura qua che prima era comunale, ai tempi ancora prima della riforma sanitaria del 78, e poi è diventata delle ASL. E beh, da quando è diventata delle ASL, più o meno nei primi anni 80, è stata pian piano praticamente distrutta questa rete. Tant'è vero che oggi la ST, come si chiama adesso, non ha nessun ambulatorio. Cioè la ST è un ente puramente amministrativo, cioè dai soldi o a chi, più ai privati che al pubblico comunque, mentre il residuo dei distretti ambulatoriali che c'erano prima sono passati alle ASST, come si chiamano adesso, cioè alle aziende ospedaliere. E per esempio la zona dove ero a Lambrate c'erano il consultorio familiare, ce l'avevo proprio di fronte. Poi c'erano due o tre distretti ambulatoriali, adesso dipendono dall'ospedale Bassini di Cinisello e dall'ospedale di Sesto San Giovanni, che hanno un territorio enorme, cioè, quindi non so cosa possano capire del territorio, secondo me niente, non c'è nessun contatto, no? Quindi diciamo è andata progressivamente sempre più oltre ai tagli della sanità, eccetera. Che ammontano, secondo la Fondazione Gimbe, che ha fatto un calcolo, ammontano a circa 37 miliardi nel corso degli ultimi 15 anni, più o meno. Parentesi, l'ultimo DEF, cioè il documento di economia e finanza che vale per i prossimi tre anni, c'è un taglio ancora della spesa sanitaria. Come uno direbbe, ma come, non c'è la pandemia? Niente, dice, tanto la pandemia poi passerà, che non è vero. E quindi hanno previsto ancora dei tagli di un 6 o 7 miliardi, una cosa del genere. Quindi la medicina, questa diciamo quasi distruzione della medicina del territorio, ha avuto la sua drammatica manifestazione, non che non ci fosse prima, però si è manifestata drammaticamente proprio nel corso della pandemia, specialmente nel primo periodo. Cioè chi accusava dei sintomi riferibili al Covid, possono essere tosse, mal di testa, febbre, sintomi iniziali, diciamo, secondo protocollo veniva invitato a stare a casa, prendere una tachipirina e si diceva stare in vigile attesa, cioè aspettiamo, vediamo quello che succede. Poi dopo qualche giorno peggiorava, magari qualcuno no, qualcuno peggiorava, doveva finire al pronto soccorso e quindi in terapia intensiva. Chiaramente le terapie intensive si sono intasate, perché oltretutto erano anche insufficienti. Adesso non c'ho una cifra esatta qua, una ogni quantomila abitanti. In Germania sono molto di più le terapie intensive, per esempio. E quindi la mortalità elevata del primo periodo è stata dovuta proprio a questo, cioè alla diciamo alla mancanza di cure domiciliari presso il domicilio del paziente con una terapia precoce, che oggi si può fare, magari allora non era così precisa, però oggi si può fare, e che avrebbe evitato tanti ricoveri e ovviamente anche tanti decessi, purtroppo, morti che ci sono stati. E oggi tutti parlano di questa medicina del territorio, che effettivamente bisogna ricostituirla, eccetera, eccetera. Però se andiamo a vedere il famoso piano del PRR, del Recovery Fund, come si chiama, vediamo che la medicina del territorio è ancora la Cenerentola, perché in generale la sanità è la Cenerentola, perché su 250 circa miliardi previsti di debito, che poi pagheranno i lavoratori fra un qualche anno, comunque 250 miliardi, solo 20 miliardi raccogliticci sono destinati alla sanità, cioè una quantità molto limitata, irrisoria, in confronto a quella industria 4.0, finanziamenti agli investimenti, a questa presunta ecologia, eccetera. Questo è un discorso che adesso è un po' lungo da affrontare comunque. E quindi di questi 20 miliardi, 11 miliardi sono destinati alla medicina ospedaliera, nel senso di nuovi macchinari che vanno per la diagnostica, eccetera, dalla TAC, risonanza o quant'altro ancora di più moderno c'è, e la digitalizzazione, cioè in teoria tutti dovremmo avere un fascicolo sanitario oggi che ognuno può accedere e andarselo a vedere, il suo, poi anche il suo medico curante eventualmente, però tutto è rimasto un po' nel limbo, questa storia non si è molto sviluppata. Adesso la digitalizzazione dovrebbe diventare addirittura telemedicina, come si dice, cioè i consulti praticamente non si fanno più le visite, vabbè adesso esagero un po', cioè, però la telemedicina, cioè fai la visita attraverso un monitor, oddio, un elettrocardiogramma lo puoi fare qui e lo puoi leggere a 10.000 km di distanza se c'è un grande luminare, eccetera eccetera. Però insomma, se non c'è un contatto col paziente, mi sembra che almeno la medicina è fatta anche di sensazioni, di clinica, di ascolto, di esame obiettivo, cosa che invece verrebbe a mancare in questo senso. Per cui diciamo questi 11 miliardi sono destinati a questo scopo. Il resto, che diciamo un po' di briciole, sono destinati appunto alla medicina del territorio, 7 miliardi circa, e è previsto che si dovrebbero formare queste cosiddette case della salute, cioè sarebbero dei poli ambulatori dove c'è la presenza di medici generali, diciamo, infermiere, una segretaria ovviamente perché deve gestire, e alcuni macchinari che permettono una prima diagnosi, che ne so, fare un'ecografia, un elettrocardiogramma, per evitare l'intasamento del pronto soccorso, fare una prima diagnosi. Sì, è tutto bello a parole, in realtà questo progetto già esiste, secondo me saranno una decina d'anni di che si parla di questo progetto, cioè perché tutti si rendono conto che la medicina di base, come è organizzata, è ormai quasi, non dico inesistente, ma il medico di base oggi, tranne qualche lodevole eccezione, per carità, però diciamo è più oberato da cose burocratiche, scritture eccetera, poi deve dare conto della spesa che ordina, cioè è un ordinatore di spesa secondo l'ASL, per cui si fa una media del territorio di quanto spende, una media di quanto spendono i medici di quel territorio. Se uno sfora, questo me lo ricordo anche io qualche anno fa, se uno sfora questa media di tanto può essere anche chiamato a corrispondere in denaro la cifra in più, a meno che non riesce a dimostrare che c'ha dei malati particolari, cioè, vabbè, queste sono cose. Però sostanzialmente la medicina di base è ormai obsoleta, il singolo medico nell'ambulatorio non è che può fare molto. Quindi da una decina di anni si diceva che bisognava fare questi poliambulatori, chiamiamoli così. E nel Veneto, per esempio, ce ne sono state fatte circa 429, se non ricordo male, perché la regione ha dato dei contributi, perché ci vogliono soldi per fare queste cose, ci vuole una sede, ci vogliono macchinari, c'è un personale che va formato, eccetera, eccetera. E quindi nel Veneto ne hanno fatte un po', in effetti il Veneto nel corso della pandemia ha avuto degli indici migliori, bisogna dire. La Lombardia, zero, cioè nessuno. Queste sono cifre che io ho preso da documenti, non è che me le invento. Sì, sappiamo che la Lombardia, da Formigoni in poi, ha privilegiato il privato. Adesso con la pandemia ancora il privato sta facendo affari alla grande. Ho avuto notizia al Trivulzio, al Pio Albergo Trivulzio, la casa per la residenza per anziani, hanno smesso di fare la riabilitazione per gli anziani, che è importante. E chi la fa? Deve andare dal privato, è ovvio, no? Quindi, per dire, il centro vaccinale dove abito io a Segrate, il centro vaccinale che è stato fatto nel padiglione della Fiera di Novegro, è gestito dal gruppo San Donato, cioè Policlinico San Raffaele, per essere più. Quindi diciamo il processo di privatizzazione avviato da Formigoni e continuato con Maroni, come poi magari dirà Andrea, la famosa legge 23 della Regione Lombardia, eccetera, eccetera, durante la pandemia sta andando ancora avanti. Quindi tornare indietro sarà difficile. Comunque queste case della salute erano già previste, si faceva affidamento sull'associazionismo dei medici che spontaneamente potevano mettersi insieme, questo non è avvenuto, oggi si dice che i medici di base dovrebbero diventare dipendenti, perché adesso non lo sono, sono ancora convenzionati con l'ASD, cioè hanno una convenzione, ma comunque da un punto di vista legale sono liberi professionisti sostanzialmente. Quindi abbiamo detto case della salute e poi ripristinare qualche ospedale di territorio, cioè piccoli ospedali che comunque hanno un certo rapporto col territorio, dovrebbero averlo, che sono stati tutti chiusi questi qua, ce n'erano comunque nell'accorpamento dei posti letto, nei grandi, questa ospedalizzazione della medicina che è andata avanti negli ultimi anni, sono stati chiusi i piccoli ospedali. I grandi ospedali, hanno sia pubblici che privati, sono diventate aziende che devono, diciamo, avere un profitto. Quindi questo è stato già negli anni 90, l'introduzione dei cosiddetti DRG, cioè a tale malattia corrispondono tot soldi, insomma, no? Cioè, quindi poi ogni ospedale si regola quale cose curare, a cosa dare la preferenza, probabilmente danno la preferenza a qualcosa che rende di più, secondo me, vediamo. Quindi diciamo anche questa ipotesi di ristrutturazione della medicina del territorio, del PRR, Stanza campata per aria, soprattutto non ci sono i soldi, perché con pochi 2 miliardi previsti secondo me non fai niente. Tant'è vero che era prevista una casa della salute ogni 8 milioni di abitanti, non so, no 20.000, no, mi pare che erano 2.600 le... Ogni 20.000, insomma... Adesso è 20.000, ma prima era... Sono state dimezzate, quindi da 2.600 sono diventate 1.300. Quindi già questo indica quale sarà il futuro della medicina del territorio, che verrà sempre di più penalizzata e con... sarebbe da fare tutto un discorso sulla pandemia... che diventa cronica, adesso magari se dopo c'è tempo lo facciamo. Secondo me ci sono diversi indizi che questa pandemia si trasformerà in una endemia, come detto in termini medici, cioè in una diciamo in una malattia che serpeggia sempre, che ogni anno si ripresenta come l'influenza, tanto è vero che Pfizer, quella, la grande multinazionale, un dirigente, adesso non mi ricordo chi, ha detto qui ogni anno bisogna rifare il vaccino, cioè, perché ci sono le varianti e quindi... sì, certo, la Pfizer lo fa per il suo profitto. Il titolo azionario immediatamente schizzato su appena ha fatto l'annuncio. Però al netto di tutto questo è vero che le varianti ci sono. L'ultima notizia che ho avuto in Inghilterra, che dice che avevano vaccinato tutti, l'hanno fatto perché hanno fatto una dose a tutti, AstraZeneca, perché è il loro vaccino, quello inglese, Oxford. Beh, adesso i contagi in Inghilterra stanno di nuovo aumentando perché c'è la variante indiana. Prima c'era quella inglese, adesso c'è quella indiana, e quindi l'Inghilterra con l'India c'è un rapporto privilegiato, l'hanno beccata prima. Quindi sicuramente il vaccino andrà fatto tutti gli anni per un tempo indeterminato, il che vuol dire che questa pandemia andrà avanti trasformandosi in forma endemica, vuol dire che subentreranno forse altri virus. In Cina già ce n'è annunciato H5N8, un altro nuovo virus. Perché? Perché le cause di questo, dello spillover, cioè del salto di specie dalle specie animali, aviarie, suine, cammelli, eccetera, a più non posso dal 2000 in poi, questo salto di specie continuerà, perché se il capitalismo, con questo tipo di sviluppo capitalistico di rapina del territorio, allevamenti intensivi, deforestazione, quello che diceva il redattore di Chuang, cioè come si dice, i territori selvaggi vengono attaccati, i virus stavano lì tranquilli da miliardi di anni, vai lì a romperli. Rompo un attimo, nel senso, se i tempi un po' contingentati, quindi se puoi... No, non volevo interrompere. No, questo, diciamo, la pandemia va avanti, trasforma in endemia, ne verranno altre. Qualcuno parla di era delle pandemie e che costituisce, non dico la fine del capitalismo, però, diciamo, una componente molto importante di un declino storico del capitalismo stesso. E tu, Andrea? Va bene. Intanto mi scuso per il ritardo, ma ho avuto un problema all'ultimo momento in ospedale, quindi io partirei da quella che è l'accesso alle cure, piuttosto che da riforme che peraltro adesso di cui non si sa molto, se non essendo disponibile ancora un articolato abbia conoscenza, ma avendo solo saputo noi che anche in quest'ultima riforma si darà una mano ai privati e si chiuderà altre strutture pubbliche. Quindi non mi immagino che Moratti possa migliorare niente di quello che ha fatto Maroni, che a sua volta non ha migliorato niente di quello che ha fatto Formigoni. Hanno sostanzialmente affossato il sistema sanitario regionale in un modo molto, molto semplice, incentivando una falsa concorrenza tra pubblico e privato, incentivando il fatto di dare le cure a seconda di quanto rendono le cure e non a seconda di quant'è il bisogno dei territori, e quindi buttando a mare tutta quella che è una condizione della medicina territoriale, come diceva, si sente o della medicina territoriale, e non intendo solo la medicina territoriale, la medicina di base, ma tutte del medico di medicina di base, ma tutta una serie di altre strutture, i centri per le malattie a trasmissione sessuale, i consultori familiari, i CPS, i centri per le dipendenze, i centri per la disabilità, tutte situazioni che, non facendo guadagnare soldi, non sono state premiate. Il CPS, per esempio, erano delle strutture dove una volta c'era il lavoro d'equipe, c'era la figura non solo la figura dello psichiatra, c'era la figura dello psicologo, c'era la figura dell'assistente sociale, perché tutte queste cose avevano un senso all'interno di una gestione. Adesso nei CPS praticamente fanno le visite contate 20 minuti per paziente, adesso col Covid i pazienti attendono anche in strada perché dentro le sale d'attesa sono piccolissime, e questo è solo per dire quello che è stato fatto in tutti questi anni. La pandemia ha reso più evidente una situazione che era già clamorosamente evidente prima, cioè la sanità non è l'accesso alla sanità non è più un qualcosa che serve per favorire l'accesso alla cura, non è un qualcosa che serve per soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma è diventata una macchina per fare soldi. Questo è quello che abbiamo visto e che vediamo tutti i giorni e che la pandemia ha solo reso più evidente. E questo lo vediamo tutti i giorni, quando abbiamo bisogno di prenotare una visita specialistica o un esame strumentale. Ma sono mesi di attesa. Sono mesi di attesa. Ormai, e questa è l'altra cosa, per un intervento come la cataratta, che sarebbe prevista nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza, perché se uno la cataratta non ci vede e uno non deve avere i soldi per avere il diritto a vederci. Adesso addirittura è diventato così scontato che quando ti capita questa disgrazia devi mettere mano al portafoglio, che non so se avete sentito quante volte passa, non so, in una radio come Radio Popolare, la pubblicità della struttura privata dove si fa la cataratta a basso prezzo. Per me questo è quello a cui siamo arrivati, a cui non ci siamo saputi opporre come compagni in tempo, perché purtroppo poi attorno a noi la gente si è assuefatta al punto che questo viene considerato ora quasi normale. Ma quindi lunghe liste d'attesa, ticket costosissimi. Per cui una sanità privata, magari strutture con un minimo di strutture cosiddette calmierate, cioè senza prezzi eccessivi, sono diventati anche concorrenziali in termini di costi. E questo ha significato che gran parte delle strutture che erogavano cure sono diventate praticamente inutili, perché se tu hai da prendere un appuntamento per una visita specialistica, stai male oggi, hai una patologia dermatologica, per dire, e il fastidio ce l'hai adesso, non morirai di eczema, però la soluzione ce l'hai bisogno adesso. Se ti danno l'appuntamento a 9 mesi, non ha neanche senso fissarlo. Questo è quello che volevo. Se il ticket ti viene a costare poi 20 euro in meno che una prestazione pagandola privatamente in una struttura calmierata, la gente si rivolgerà a questo. E questa è stata un pochettino la pandemia. Cosa ha fatto? Ha reso molto più evidenti queste situazioni. Perché? Perché intere strutture hanno dovuto chiudere per dare spazio alla cura del Covid. Cioè, molti pazienti cronici sono stati abbandonati a se stessi. E quello che mi fa più incazzare in questa cosa, che a livello regionale, a livello di dirigenza degli ospedali, tutti hanno fatto finta di niente. Solo gli operatori sanitari, in certi casi, si sono auto-organizzati per mantenere dei contatti con i pazienti e per non perderli di vista. Questa è l'unica cosa che è stata fatta da alcuni di noi, perché nella maggior parte dei casi i malati sono stati completamente lasciati a se stessi. E questa è una cosa che grida vendetta. Adesso, per esempio, io faccio le visite a un certo tipo di malati che richiedono controlli semestrali. Ma sapete quando sono i miei primi appuntamenti disponibili? Marzo 2022. Ma d'altra parte io non riesco a fare di più. Tengo i contatti con i pazienti, mi faccio mandare gli esami, quelli che sono meno gravi, faccio una scelta, come diceva prima giustamente Visconte, con chi gestire le cose a distanza, quelli meno impegnati, e con chi invece vedermeli in faccia. Però lo faccio io. E non toccherebbe a me farlo. Ci sono strutture, fior di dirigenti, pagati fior di soldi per mantenere in piedi un sistema che invece è completamente collassato durante questa pandemia. Un'altra cosa che volevo sottolineare, perché Visconti ha detto chiaramente quello che è costato il fatto che non ci fosse una rete di medicina territoriale, ma è costato non solo il ritardo nelle cure, non solo l'accesso tardivo in pronto soccorso, è costato anche che gli ospedali sono diventati dei nidi di diffusione del Covid. E quando i malati erano malati fragili, che si trovavano in pronto soccorso per altre cose e hanno preso il Covid, la mortalità è stata fino del 30%, perché erano pazienti fragili. E anche di questo i nostri dirigenti regionali sono responsabili. E anche per questo dobbiamo metterli con le spalle al muro, rifiutando di farci passare l'ennesimo peggioramento di una riforma che taglia tutto ciò che serve alla popolazione e finanzia solo ciò che serve a chi fa i soldi, i profitti nella sanità. Ultimissima cosa, ci tenevo a sottolineare che anche quella che hanno chiamato la campagna vaccinale, che ha ripreso la Lombardia eccellenza perché hanno cominciato a fare qualche vaccinazione in più. Ma sapete da dove vengono i medici vaccinatori e gli infermieri? Vengono dagli ospedali distratti dalle loro normali attività. Cioè, anche in quello che loro vantano, devono chiedere scusa agli operatori che li hanno costretti a vaccinare perché non esisteva altra struttura in grado. La sanità territoriale non esisteva. L'unico personale che è stato che si è trovato arruolabile gli studenti, gli specializzandi che lavorano negli ospedali universitari e i lavoratori infermieri e medici degli ospedali. Su questo vorrei essere proprio chiaro, in questo modo però ci hanno costretto ancora a ritardare le cure a popolazioni che abbiamo dimenticato, tralasciato per un anno e mezzo, e questo fa già vedere delle gravi conseguenze, come complicanze diagnosticate in ritardo significa, quando va male, perdere il paziente, quando va bene avere un percorso di cura che è molto più complicato e meno efficiente rispetto a quello che sarebbe stato possibile con una diagnosi fatta al momento giusto. Ecco, io scusatemi se non ho parlato troppo di leggi, capitolati, cose strane, perché non è il mio mestiere, però mi sembra giusto che vediamo, che denunciamo noi che viviamo tutti i giorni nella situazione, nelle strutture sanitarie, quello che vediamo, quello che ci costa, perché ci costa anche auto-organizzare i contatti con i pazienti. A me costa 3 ore di lavoro in più tutti i giorni e non è una d'altra parte non ci sarebbe modo di gestire in modo alternativo situazioni diverse. Se poi qualcuno ha qualche domanda, magari ne parliamo più dei dettagli, adesso lascerei il passo ai compagni del... Sì. No, adesso ci colleghiamo con Bologna, con Tiziano, dell'Assemblea delle Lavoratrici e Lavoratori Combattivi. Buonasera, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, bene, grazie. Ma io faccio una premessa, e cioè che il rapporto che c'è tra la salute e nel mondo del lavoro e i lavoratori è un rapporto che non è mai sfociato, è un rapporto spesso conflittuale, un rapporto contraddittorio. Dico questo perché per me, che sono che ho militato nella sinistra rivoluzionaria, mi è capitato già negli anni 70, quando si pose al centro la questione di Porto Marghera, e ci trovammo in conflitto con gli operai e con le stesse avanguardie che allora appunto magari facevano parte delle nostre organizzazioni. La cosa si è ripetuta negli anni, ed è oggi abbiamo sotto gli occhi in un modo evidente quello che è successo e che sta succedendo all'ILVA, all'ex ILVA di Taranto, devo dirvi, ho fatto questa premessa proprio per questa ragione, che anche ciò che è successo nella logistica quando è scoppiata la pandemia, sostanzialmente per un certo periodo ha avuto le stesse caratteristiche, cioè i lavoratori, quando sono messi di fronte alla necessità di scegliere tra difendere la loro salute, difendere la sicurezza e scegliere di mangiare, scegliere il pane, scelgono prevalentemente il pane. E questo naturalmente è una contraddizione piuttosto evidente. Quando è scoppiata la pandemia, diciamo attorno a marzo, abbiamo cominciato a ragionare su quale fosse la proposta più corretta utile a difendere la salute dei lavoratori, e abbiamo scelto di fare l'astensione dal posto di lavoro. E immediatamente, se da un lato questa proposta è stata accettata da settori che normalmente non facevano riferimento al nostro sindacato e non facevano riferimento, diciamo così, al settore della logistica, che è il settore nel quale noi siamo prevalentemente presenti, ha creato, come dire, problemi non soltanto tra i nostri lavoratori, che come sapete hanno una propensione alla lotta piuttosto esemplare, ma anche all'interno dello stesso sindacato. Cioè, dal momento in cui abbiamo chiamato ad una lotta che non prevedesse la richiesta di un ticket mensa più elevato, piuttosto che di un aumento salariale, o piuttosto che di altre questioni legate magari alle condizioni di lavoro, ecco che, come dire, le titubanze, in alcuni casi anche il fatto che i lavoratori comunque hanno lavorato, ha prodotto, diciamo, ci ha riportato all'interno, insomma, dell'alveo delle contraddizioni che ci sono stati all'interno della sinistra nel rapporto, appunto, tra lavoro, tra necessità di portare a casa un salario e la sicurezza. Questo è perché è un punto sul quale, appunto, noi abbiamo e stiamo ancora ragionando rispetto poi a ciò che si deve costruire in prospettiva, perché io penso, appunto, come dicevano i compagni che mi hanno preceduto, che noi ci accingiamo ad affrontare una fase che probabilmente sarà, insomma, come dire, avrà altri elementi di questo tipo. Poi io non lo so se, diciamo, sarà una questione che metterà in crisi il capitalismo, io non lo so, però, insomma, è chiaro che siamo di fronte ad una nuova fase che va affrontata in un altro modo. In ogni caso, quello che si è prodotto è che, dopo un iniziale ripensamento, i lavoratori piano piano hanno cominciato a ragionare sulla necessità di mettere al centro le proprie condizioni di salute e di vita piuttosto che quelle piuttosto del lavoro. E io sono operatore sindacale in un territorio che è stato particolarmente colpito. Io non so chi di voi ha potuto assistere a quella schifezza che è stata Carta Bianca martedì scorso, nel confronto tra Bonaccini, che è il presidente della Regione Emilia-Romagna, e la Bianca Berlinguer, quando ad un certo punto Bonaccini ha rivendicato la bontà della situazione economica dell'Emilia-Romagna ed ha detto: ma in fondo le merci hanno potuto viaggiare e le merci, come si sa, non portano il Covid, e quindi questo ha prodotto il fatto che in ogni caso il PIL nell'Emilia-Romagna ha un valore altissimo rispetto al resto del paese. È una roba, se voi ci pensate, agghiacciante, come se le merci potessero viaggiare così da sole, senza che invece dietro le merci ci sono stati uomini e donne che si sono ammalati, che sono anche morti causa il Covid, causa, appunto, questa necessità, per cui nel nostro paese ad un certo punto tutte le aziende producevano materie essenziali. A questo punto noi ci siamo posti una serie di questioni, e cioè, se da un lato abbiamo sottolineato la assoluta inconsistenza dei protocolli che hanno prodotto le parti sociali che si sono sedute intorno a questi famosi tavoli, parlo dei sindacati confederali, parlo delle associazioni imprenditoriali e parlo del governo. Noi invece siamo partiti direttamente dalle necessità che i nostri lavoratori vivevano all'interno dei magazzini, e non solo nei magazzini. E quindi abbiamo costruito un protocollo che, se da un lato, come dire, spingeva per la necessità di avere tamponi per tutti e per la l'igienizzazione dei posti di lavoro, eccetera, dall'altro lato abbiamo cercato di lavorare sull'organizzazione del lavoro. Cioè, abbiamo detto: siccome la logistica è un settore in crescita, nei primi 4 mesi del 2020 ha avuto un incremento di volumi dell'85% per assestarsi alla fine dell'anno ad un aumento del 35%, ha prodotto il fatto che nei magazzini venissero i magazzini che normalmente contenevano 100-150 lavoratori, ad un certo punto ci sono stati 300 lavoratori, molti dei quali venivano presi tra i rifugiati dentro ai CIE, ai centri di detenzione, e poi venivano questi lavoratori, senza nessun controllo, venivano, come dire, spostati dentro tutti i magazzini della logistica. Questo ha prodotto dello scoppio di focolai, dove, per esempio, in alcune situazioni il 60... Pronto? Mi senti? Scollegato? Saltato. A contatto, spesso parliamo Spesso parliamo di 300 lavoratori che hanno una mensa comune, uno spogliatoio comune, quando va bene 5-6 bagni. E quindi abbiamo diminuito l'orario di lavoro da 8-7 ore pagato 8, perché così insomma è chiaro che era un elemento di tutela in più rispetto alla salute dei lavoratori. Poi sappiamo bene insomma che non è la panacea questa qua, perché ovviamente l'unico diciamo così DPCM, che l'unico protocollo applicabile in questo caso sarebbe la distruzione di questo sistema predatore che approfitta della Nicola. In più abbiamo avuto i metalmeccanici della, seguono anche i lavoratori metalmeccanici della Stellantis, e lì nella linea 6, che è una sorta di, come dire, di linea dove mettono i lavoratori più politicizzati, è una linea confino, i lavoratori prendono con un paranco dei motori e li scaricano su un bancale. Nel momento in cui fanno l'operazione di scaricare, la mascherina scende, loro non possono farla risalire perché hanno le mani sporche di grasso, e immediatamente il loro capo reparto fa la foto, e poi arriva la lettera di contestazione, la seconda con la recidiva e la terza con il licenziamento. Quindi è chiaro insomma che noi abbiamo dovuto fare i conti con una situazione che era, come dire, estremamente grave, e verso la quale abbiamo dovuto porre alcune questioni. Che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo sono successe cose che secondo me sono interessanti. Allora, intanto, in tutti i magazzini in cui noi siamo presenti, finalmente i lavoratori si sono posti la questione di eleggere l'RLS, cioè il delegato alla sicurezza. E se, diciamo, prima avevamo dei problemi nel rapporto con le aziende perché non ci facevano eleggere l'RSA, cioè i delegati, oggi le aziende non vogliono che noi eleggiamo l'RLS, perché finalmente abbiamo delegati che rappresentano i lavoratori e non delegati che rappresentano il punto di vista del padrone. L'altro elemento, abbiamo lavorato sul post-Covid, perché ci è capitato di avere, per esempio, dei lavoratori che si sono ammalati, hanno ripreso, e quindi voi sapete che quando uno si ammala, il Covid è malattia, è INAIL, è infortunio sul lavoro. Però cosa succede? Succede che da un lato l'INAIL ha cominciato a non pagare più i lavoratori, perché voleva spiegazioni su come il lavoratore avesse contratto il Covid. E secondo aspetto, quando i lavoratori hanno ripreso a lavorare, molti dei lavoratori hanno avuto dei problemi, quindi abbiamo cominciato a chiedere, stiamo chiedendo del supporto psicologico, perché il lavoratore non riesce a lavorare, qui abbiamo trovato un muro ovviamente che è difficilissimo da scalfire. E il terzo elemento è questo. Allora io penso che noi oggi, fino ad oggi appunto, proprio perché c'è stato questo rapporto contraddittorio tra salute e lavoratori, abbiamo chiuso non soltanto un occhio, ma li abbiamo chiusi tutti e due, per cui ciò che era prevalente nella definizione delle piattaforme contrattuali erano qualche diritto e salario. Oggi io penso che non possiamo più lavorare in questo senso. Noi oggi dobbiamo legare le questioni, tutte le questioni, in particolare il problema della salute e della sicurezza, perché ricordo che mentre morivano di Covid molti lavoratori, tanti altri morivano perché cadevano dai ponteggi o perché venivano stritolati dalle macchine sulle quali lavorano. Quindi da un lato queste due questioni, per cui non può più essere una questione di cui si parla semplicemente per fare dell'accademia. Oggi la salute e la sicurezza devono essere assolutamente materie prioritarie al pari di quelle dei diritti, di quelli del salario, quelli del buono mensa, eccetera, perché altrimenti noi ovviamente troveremo delle, come dire, magari lavoratori che prendono un buon salario ma che lavorano in condizioni che sono francamente inaccettabili. Allora è chiaro che si è aperta questa discussione, una discussione che è difficile, ma sulla quale noi ci dobbiamo giocare, perché altrimenti appunto, siccome le condizioni saranno sempre peggiori, proprio per le cose che diceva chi mi ha preceduto, è evidente che anche le vertenze sindacali non possono prescindere dalla necessità di costruire piattaforme in cui uno dei i nodi principali sono anche quelli della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Grazie. Grazie a te, Alessandro. Tiziano, scusate. Adesso Gianni, infermiere, ospedale ex infermiere, ex delegato RLS, RSU dell'ospedale San Paolo e San Carlo, che ci spiegherà un po' la vicenda un po' complessiva di quello che è successo da noi, come sta andando, e qualche valutazione, insomma. Allora, la vicenda degli ospedali San Carlo e San Paolo in pratica ha risentito della legge 23 regionale approvata nel 2015. Questa legge in pratica unificava gli ospedali San Carlo e San Paolo, che fino ad allora avevano avuto una gestione autonoma, unificava questi due ospedali e un pezzo del territorio afferente a questi due ospedali di circa 300 lavoratori del territorio. Questi due ospedali sono stati, diciamo, messi insieme, però dall'atto pratico, in pratica, questa unione non è riuscita a verificarsi, perché negli anni in pratica sono successe delle cose riguardanti soprattutto sulla sicurezza di questi due ospedali. All'inizio in pratica volevano trasformare il parco dell'ospedale San Carlo in una rimessa per elicotteri del 118. La cosa che era impossibile, cioè chiunque ragionando può pensare che un servizio di questo genere dovrebbe trovarsi in un eliporto, non in un ospedale. Ma loro, la Regione Lombardia, aveva questo progetto per risparmiare dei soldi che doveva il 118 alla base di Bresso. La situazione proprio che si è verificata è che nel parco dell'ospedale doveva in pratica essere realizzata questa base con in pratica un hangar e un deposito di carburante di 9.000 litri. Ed è chiaro a tutti che sotto le finestre dei pazienti questo era un pericolo molto evidente in un ospedale che ha già il rischio di incendio. Ma chi gestisce la sanità non capiva queste robe, per cui abbiamo dovuto lottare come sindacato e come RLS soprattutto per fare in modo che questo progetto in pratica non venisse realizzato. Dopodiché si sono inventati che questi due ospedali in pratica dovevano chiudere, perché dovevano realizzare un nuovo ospedale più piccolo con un solo pronto soccorso, mentre invece dei due pronto soccorsi, per cui con 700 posti letto invece dei 1.300 attualmente che hanno i due ospedali. E questo progetto in pratica vedeva la chiusura di questi due ospedali, che invece avevano avuto i soldi per avere la ristrutturazione negli anni da parte del Ministero. Ma lo scopo di Regione Lombardia era quello di far crescere il privato, e mentre fanno questo giochetto all'ex Expo svendono un'area dove il Galeazzi sta costruendo un ospedale privato, per cui che assorbirà gran parte dell'utenza, diciamo, di questi due ospedali, che nei progetti della regione comunque sono ospedali da chiudere, cioè ancora oggi, anche se il loro, diciamo, primo progetto è fallito miseramente, perché sapevano già dall'inizio che dove dovevano costruire questo ospedale in pratica era difficilissimo fare le bonifiche, perché era una ex cava sequestrata alla mafia, per cui piena di schifezze, diciamo, difficile da bonificare. Ma questo lo sapevano subito, ma loro serviva a distrarre, diciamo, l'attenzione, per poi dare, diciamo, quest'area al Galeazzo per poter costruire un edificio di 16 piani, un ospedale privato che servirà a quella zona. E questo poi attualmente stanno facendo una ristrutturazione che a macchia di leopardo di questi, non c'è un progetto di dire ristrutturiamo questi due ospedali affinché abbiano una struttura degna, diciamo, per la popolazione di usufruire un servizio pubblico. Invece questo non lo stanno facendo e addirittura sono spariti dei soldi di questi finanziamenti, in pratica sono stati poi revocati perché non hanno avuto, diciamo, non hanno fatto il progetto definitivo. Per fare, diciamo, per avere questo finanziamento finale dovevano produrre un piano, diciamo, di ristrutturazione finale di questi due ospedali, e questo non è stato fatto, per cui alla fine il Ministero si è ripreso i soldi che aveva destinato per fare questo finanziamento. Attualmente in pratica la situazione è questa, da un punto di vista, diciamo, di ristrutturazione di come stanno questi ospedali, è allucinante, perché ad esempio stanno facendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Ad esempio fanno delle canne di acque nere nelle parti in cui non potrebbero, per cui poi ci sono delle infiltrazioni all'interno delle strutture, diciamo, che arrivano, diciamo, negli ambulatori o dove ci sono i reparti, diciamo, amministrativi o di questo genere, per cui fanno delle cose che non sono a norma, per cui poi sono solo delle toppe che non risolvono, diciamo, la questione, perché questi ospedali andrebbero ristrutturati per avere anche dei servizi all'interno delle camere, perché questi attualmente non li hanno, i bagni sono all'esterno, sono dall'altro lato, per cui la difficoltà per i pazienti è anche quella di non avere un servizio, diciamo, decente di queste due strutture, per cui dovrebbero essere ristrutturati in questo senso. Dall'altro canto noi ci siamo trovati a dover in pratica adesso fare un ricorso per ottenere, perché l'attuale direzione non ha riconosciuto gli RLS dell'USI Sanità. In pratica, da quando siamo andati in pensione, i tre, diciamo, RLS che eravamo come USI, la direzione non ha più riconosciuto, diciamo, quelli che abbiamo nominato all'interno degli organismi. Ma questo perché l'USI dava fastidio, perché questa è stata una discriminazione, perché altri sindacati non hanno avuto questo trattamento. Noi siamo stati esclusi totalmente come rappresentanti sulla sicurezza in un momento in cui c'era la pandemia, parliamo di aprile, di gennaio 2020, in piena, diciamo, pandemia, gli RLS non sono stati riconosciuti, per cui noi non avevamo la possibilità di interagire con i lavoratori o di avere quelle informazioni sulla sicurezza che ci permettevano di fare delle proposte, comunque di dare ai lavoratori quelle informazioni sulla sicurezza. Questo modo di agire della direzione in pratica ha portato all'interno dei due ospedali a un contagio altissimo tra il personale. Si parlava addirittura di 600 persone, 600 dipendenti contagiati all'interno della struttura, su cui la direzione voleva far passare che invece i contagi erano avvenuti per questioni sociali, per questioni di interscambio nei momenti di socialità tra il personale. Non ammetteva che l'organizzazione che aveva previsto all'interno degli ospedali, invece, che era in pratica mista tra reparti non Covid e reparti Covid, poteva portare in pratica una contagiosità maggiore rispetto invece a dedicare delle aree Covid e delle aree non Covid, per cui non c'era questo mischiamento, perché non essendoci poi in questo ospedale i percorsi sporco pulito, risultava, diciamo, un continuo passaggio per, diciamo, far capire che dividere un'aria sporca da un'aria pulita, nello stesso corridoio mettevano una riga rossa e una riga verde. Da una parte era lo pulito, dall'altra lo sporco, come se il virus rispettasse le linee che erano nello stesso corridoio, quando invece i percorsi sporco-pulito dovevano essere circolari all'interno della struttura e quindi avere un ingresso e un'uscita da un'altra parte, in modo che le persone non si incontrassero nello stesso nell'avanti e indietro. E questo in pratica ha permesso una contagiosità maggiore tra il personale e anche tra i visitatori che avevano lo stesso passaggio. Per cui, diciamo, il direttore generale ha escluso gli RLS, per cui noi ci siamo trovati in difficoltà. Abbiamo più volte scritto, ma alla fine ci siamo decisi a fare un ricorso per attività antisindacale contro questa direzione, perché proprio non ascoltava tutte le nostre richieste, tutte le nostre lettere sono andate in vano, diciamo, non hanno mai risposto e addirittura a un certo punto i nostri RLS che si presentavano comunque agli incontri non venivano registrati come RLS, come se fossero persone ignote. Per cui in questo RLS c'è una discriminazione di genere, perché di fatto la nostra componente, diciamo, femminile non è stata riconosciuta all'interno del gruppo RLS, e avendo lo stesso gruppo una minoranza forte, avendo una sola donna all'interno di un gruppo di 10 persone. Per cui c'è stata questa discriminazione di genere e poi vi è una discriminazione verso l'organizzazione sindacale che di fatto non è stata messa in grado di far agire gli RLS per garantire la sicurezza all'interno degli ospedali. Bene. Vabbè, dovrei parlare anch'io, ma non so se vale la pena fare un altro intervento sul San Paolo, visto che l'ha già detto lui. Nel senso, magari lascerei più spazio se c'è voglia. No, no, anche perché non ho preparato un intervento organico, nel senso che mi sono speso di più a fare il video, che se volete guarderete dopo, dove compaio e si vede, si parla, e quindi non voglio assillarvi troppo con la mia voce. Quindi magari... Posso fare una domanda a Gianni? Sì, finito. Si riunivano. Si riunivano, ma non essendo conflittuali come loro, in pratica, perché il discorso degli RLS è anche... come si agisce. Se un RLS, diciamo, è acquettato dalla direzione, fa quello che dice la direzione. Se è un RLS invece conflittuale che vuole risolvere delle cose, allora si mette in prima persona a battagliare, diciamo, sulla sicurezza, perché uno si rende conto, diciamo, che non è solo la sicurezza del personale, è la sicurezza anche delle persone che arrivano in quei luoghi, cioè per cui bisogna pensare anche a chi viene all'interno di queste strutture o all'organizzazione delle strutture. Quando si chiude un reparto si può danneggiare delle persone. Ad esempio, da noi è successo che nell'organizzazione che è stata fatta sugli hub cardiologici, l'emodinamica del San Carlo nella seconda ondata è stata chiusa nei giorni festivi e di notte. È rimasto aperto solo quella del San Paolo. Questo è un azzardo. sapendo, cioè che loro sanno che il 40% delle persone che si presenta per questa patologia si autopresenta, cioè non arriva con l'ambulanza, arriva tramite un parente, arriva tramite macchina, cioè arriva in questo modo al pronto soccorso. Questo doveva fargli capire che non è possibile chiudere un servizio importante come l'emodinamica. Eppure loro hanno deciso nell'organizzazione delle due strutture la chiusura di quel centro, sperando nella fortuna, perché è un azzardo, perché tutto può andare bene, ma tutto può andare male. E sfortuna vuole che è successo. Succede una domenica che arriva un cittadino accompagnato da un parente che aveva bisogno di questo servizio perché aveva un infarto. Questo servizio era chiuso, non c'era, diciamo, il medico reperibile, perché appunto servizio chiuso non si mette reperibile. Per cui è stato trattato in pronto soccorso, ma alla fine di quello che aveva bisogno lui, che era di quella sala emodinamica, che magari gli risolveva, gli dava la possibilità di poter magari continuare a vivere, almeno la possibilità. Questa possibilità gli è stata negata, perché quella sala era chiusa, e chiusa è rimasta. Per cui è come se avessero, cioè in quel periodo, è come se avessero in pratica fatto giocare alla roulette russa un'intera popolazione. E c'è stato quello che ha pagato questa roba, qui un cittadino comune, ma poteva capitare a chiunque di trovarsi in quelle condizioni e di non avere la sala aperta. Questo è anche sicurezza da dare ai cittadini da dentro, le persone che lavorano dentro, cioè sanno di più come sono, diciamo, i giochi, di come funzionano le cose all'interno delle strutture. E questo è un grave, cioè un direttore dopo una roba del genere doveva scomparire, doveva saltare, doveva andare a fare un altro lavoro. Invece è ancora lì che comanda. Vabbè, allora mi avete convinto e quindi integro il discorso che faceva Gianni. Nel senso che l'altro elemento che poi ha portato allo stato di agitazione che è stato fatto nell'autunno è stata la sigla di un contratto integrativo aziendale. Questo sempre in piena pandemia, quindi sempre con lo stato di emergenza dichiarato, sempre con la cappa dall'alto che non puoi vederti, non puoi incontrare i lavoratori, non puoi fare le assemblee, non puoi fare nessuna attività che prima facevi. E quindi hanno approfittato di questa pandemia per fare quello che sognavano da tempo, vendicarsi prima di tutto contro di noi e poi attuare una politica repressiva su tutti e anche sui più recalcitranti, no? Perché la prima ordinanza che questa direzione condotta da Matteo Stocco è stata quella di avere nessun contatto con la stampa, quindi divieto assoluto di parlare, comunicare con la stampa, pena licenziamento, pena commissione di disciplina. Tra l'altro, quello che diceva Gianni del ricorso dell'RLS, c'è da dire che allo stesso tempo, oltre a non riconoscere, ha mandato anche in sottocommissione disciplinare un membro sempre nella nostra segreteria che è del comitato Covid, che è quello istituito in seguito ai vari decreti di marzo-aprile del 2020, in cui si andava a dire oh, bisogna dare valore agli RLS, bisogna dargli importanza, agibilità, eccetera. Invece nella pratica avveniva tutt'altro. Addirittura noi, un nostro membro del comitato, solo perché ha diffuso dei dati di contagi del personale, è stato mandato in commissione di disciplina. Quindi ritorniamo al secondo elemento che poi ha portato all'agitazione, è quello del contratto integrativo. Un contratto integrativo peggiorativo di quello nazionale, perché ci sono le due istanze, prima il contratto nazionale e poi a cascata si va ad applicarlo con un accordo aziendale o integrativo, si chiama, che però la RSU non l'ha firmato. La RSU è quell'organismo che rappresenta tutti, che è quella che si confronta con l'azienda sulle varie problematiche e che è quella che è l'unica che sottoscrive un contratto integrativo con la controparte. Poi ci sono anche le organizzazioni sindacali territoriali che però in questo caso hanno fatto loro la parte del leone, nel senso che la RSU da noi il contratto integrativo non l'ha firmato, l'hanno firmato due, tre sigle sindacali territoriali, tranne la CGIL USB, e tutti gli altri hanno firmato tutti, che poi sono stati premiati questi sindacalisti, sempre in emergenza Covid, con la trasformazione del loro posto di lavoro in coordinatori, in posizioni organizzative, robe che sono equivalgono a indennità che possono arrivare anche a 11.000 euro l'anno in più rispetto a un normale infermiere. E quindi la situazione è diventata un po' incandescente, perché ne abbiamo tentato di tutti i modi di contrastare. Il ricorso degli LRS non è il primo è stato quello all'ispettorato del lavoro. L'ispettorato di lavoro, perché nella nostra azienda, approfittando di questa emergenza, sono stati istituiti i turni di 12 ore. E quindi questa roba qua ha fatto un po' incazzare la gente. No, abbiamo fatto questo ricorso, che sarebbe il secondo che facciamo all'ispettorato, ma nulla si muove. Come anche l'altro esposto sul fatto anche con Medicina Democratica sulla libera professione. Sempre in piena emergenza, eravamo nel maggio dell'anno scorso, che si sembrava che fosse finita, e già l'amministrazione pensava di attivare la libera professione, quando invece le visite di base, quelle prenotate con un modo classico che è stabilito, che tutti sanno, avevano liste di attese di anni. E quindi anche questo esposto è stato fatto, ma anche qui nessuno rileva. Anche da noi c'era l'aggravante, che questa aggravante era che l'attività libera professionale la svolgevano durante l'orario di servizio istituzionale, cioè col Servizio Sanitario Nazionale. Quindi era doppio l'infrazione in questo caso. È anche un po' più pesante del solito, invece che fare la libera professione quando tu hai terminato il tuo rapporto e allora vai a fare le marchette come vuoi. Ma quando tu poi mi occupi tempo e spazio in un orario che è fissato per l'istituzionale, allora c'è anche una truffa in questo. Ma anche questo non è passato. Un altro esposto che abbiamo fatto, anzi una denuncia, è per la questione dei lavoratori dell'emodinamica. A questi qua, sempre in agosto del 2020, trattenuta di 12.000 euro perché avevano sbagliato a pagare le indennità sulla reperibilità. Cioè, il servizio di emodinamica, conoscete cos'è? No? Dove mettono gli stent, eccetera, eccetera, quando uno è infartuato, e che prevedono servizi H24 quando sono festive o meno la reperibilità, che però se il personale è scarso, le tue giornate di reperibilità, che per contratto nazionale sono 6, arrivi anche a 8, 9, 10, 11 presenze di reperibilità, che tu sei sempre chiamato, eccetera. E quindi lì dovevi pagare. E quindi oltre al danno anche la beffa, perché poi il lavoratore l'orario l'ha fatto comunque, no? Se uno viene chiamato e viene a svolgere, lo devi pagare, no? Loro hanno detto che invece non spettava, perché sembrava che fossero loro i difensori del contratto nazionale. Si invertivano un po' le parti. Quindi anche in questo c'è una denuncia, questa, che però anche non è andata in porto. L'altra è quella fatta all'ATS, sempre sul contagio in archivio clinico, dove 10 operatori si sono contagiati, per il trasporto di materiale e cartelle cliniche dai reparti Covid in archivio clinico, che non hanno seguito i giusti percorsi, per cui contagi, due rianimazioni. Quindi il personale sanitario è quello che sta pagando, ma molto più pesantemente rispetto agli altri. Cioè da noi si parla, cioè non noi, in Italia, un contagio che arriva a superare le 100.000 persone, con più di 400 morti fra il personale, di cui la maggior parte, 340, credo siano medici. Il problema è tuttora è sempre quello. Non ci sono informazioni, le notizie scarseggiano, gli incontri non ci sono più. Con la nostra uscita tutto è rimasto bloccato e quindi poi si è arrivato nell'autunno a dichiarare uno stato di agitazione che poi si è conclusa con una giornata di sciopero del dicembre, che però insieme a questa agitazione è partita anche quella dei medici. Vi ricordate i famosi 50 medici che avevano denunciato la situazione critica dei due ospedali, per cui dicevano che erano costretti a volte a fare delle scelte fra chi curare e chi non curare. Beh, questo è stato un caso che è arrivato a livello nazionale, addirittura sul tavolo di Sileri, ma anche qui il pugno di ferro. Hanno detto sempre che non ci saranno conseguenze, però i procedimenti vanno sempre avanti, magari non contro i medici, ma con il personale del comparto. Questi si sprecano a non finire, cioè è un continuo. Per cui aver fatto uno sciopero aziendale in queste condizioni, posso dire, anche se la partecipazione interna, perché era uno sciopero aziendale, non è stata molto partecipata, lo dobbiamo pure dire, però dobbiamo anche dire che il personale era carente. Dobbiamo anche dire che i contingenti di scioperi non sono arrivati. Per legge devono arrivare 5 giorni prima della data di sciopero, in modo che i lavoratori possano scegliere se fare lo sciopero o meno, senza comunicarlo. Da noi, all'ospedale San Paolo, è arrivato la settimana successiva. Al San Carlo è arrivato nella mattinata dello sciopero. Quindi è evidente una voglia di boicottare questo, di reprimere, che però, dando un altro giudizio della risonanza dello sciopero, io direi che è stato uno sciopero che ha avuto una certa rilevanza anche grazie alla solidarietà di altri settori di lavoratori, anche grazie all'attività e supporto di alcuni centri sociali, e che ha messo sì in evidenza questa storia che noi da anni stiamo vivendo all'interno di quel posto lì. Quindi, non so, non vado oltre, perché lo vedrete se no nuovamente nel video. Il video adesso per noi, quando finiremo, continuerà in streaming, invece noi aspettiamo di mangiare un pochettino, un po' di buio, e poi lo vediamo. Quindi altre cose, non so cosa aggiungere. Ah, ecco, quello che voglio aggiungere invece, a curiosità personale, a quello che diceva Visconti prima, quando parlava della terapia domiciliare, della terapia medicina del territorio, è una domanda che pongo anche a voi. Dico, ma come mai tutti gli sforzi sono fatti per approvare questo vaccino? E quando sappiamo che ci sono anche delle terapie valide, anche dimostrate, ma che sono anche replicabili anche all'estero, nel senso che non è solo un'esperienza del bresciano piuttosto che di alcuni medici, ci sono organizzazioni in Italia che rappresentano migliaia e migliaia di lavoratori del settore, in cui dicono che prioritario sono gli interventi sulle cure precoci, perché se si attua questa politica qui, questa scelta, che è anche un triage come diceva Andrea, vuol dire che tu limiti poi l'accesso in ospedale, limiti l'ingresso nelle terapie intensive, eviti che gli ospedali collassino se tu intervieni prima. E allora ce lo facciamo sta domanda: come mai le terapie precoci non vengono sponsorizzate? Come mai non esiste un protocollo? Cioè, i protocolli sui vaccini li hanno approntati in fretta e furia, ce li stanno anche facendo, ma invece per le cure domiciliari non hanno fatto nulla. Come dicevano loro prima, a novembre Speranza fece uscire questo protocollo che diceva: nel caso di infetto contagiato, a casa, in isolamento, vigile attesa, un po' di febbre, tachipirina. Questo è il protocollo che Speranza aveva fatto. Naturalmente poi questo non è andato bene a tutta questa gente che si muoveva, ha impugnato il regolamento e hanno vinto. Cioè, l'associazione sostenuta da Grimaldi ha ottenuto un obiettivo abbastanza importante, che è quello che il medico in sua coscienza deve decidere lui cosa è meglio per il paziente, e non un protocollo che dica tachipirina e vigile attesa. Perché se tutti fossero magari così addomesticati a quello che ci viene detto, qui le cose sarebbero ancora più brutte. Per fortuna credo che ci sia qualcuno che magari la pensa un po' diversamente, e magari su questo ci sto facendo anch'io dei ragionamenti individuali, personali, e per cui, non so, magari mi vorrei confrontare su questo con altre persone, perché poi, andando avanti nelle ricerche, poi vai a scoprire il perché queste cure non vengono sponsorizzate. E non vengono sponsorizzate perché hanno scelto di sviluppare la campagna vaccinale mondiale su 8 miliardi di persone. E se prima le case farmaceutiche non avevano interesse a investire sui vaccini con questo miraggio, e invece ci stanno facendo due conti, col miraggio poi anche di imporlo obbligatoriamente ai settori dei lavoratori, che si inizia con la sanità, che poi non sa come si andrà a finire anche per gli altri settori, beh, il problema diventa bello grosso, no? Per un vaccino che ci dicono loro stessi che non serve a debellare il contagio, serve a proteggere, a rendere meno grave la tua situazione. Ma non che, difatti, loro stesso dicono che chi è vaccinato può contagiare gli altri, e per cui l'obbligo ancora della mascherina, l'obbligo di tante altre limitazioni, che per adesso l'hanno fatto solo per gli infermieri. Quindi, dicevo prima, perché non vengono sponsorizzate? È per il semplice fatto che l'approntamento dei vaccini, da quello che ho potuto vedere, da poco inglese che capisco, ho visto che tutte le varie agenzie, sia nazionali, l'AIFA, sì, sia che europea, l'EMA, che americana, l'FDA, eccetera, beh, loro dicono che per approvare e mettere sul mercato un vaccino ci sono due strade, quella normale di routine e quella straordinaria di emergenza. Quella ordinaria di routine arriva anche a fino a 5 anni di sperimentazione, invece quella ordinaria in pochi mesi. E quindi l'altra domanda è: ma su una roba approntata in pochi mesi c'è affidabilità su questo? No. Allora andiamo avanti, nel senso che un altro motivo è perché si possa fare il vaccino in via straordinario è che non esista altra terapia valida per curare questa patologia. Quindi il trucco è questo. Io non riconosco le terapie domiciliari precoci, perché se le dovessi riconoscere verrebbe meno il motivo per approntare un vaccino in via d'emergenza. Quindi, siccome loro dicono qui nessuno ha approntato un protocollo di nessun tipo di terapia, quindi l'unica strada è il vaccino. Quindi questa è conseguenza. normale, quindi questa è una mia posizione individuale, quindi non sto facendo un discorso, è un dei dubbi che avevo, quindi finito qui. Boh, se volete parlare, poi vi spiego, poi il filmato ho detto lo vedremo dopo, noi mangiamo poi qualcosa se volete, ditelo, se c'è qualche anche vegetariano, e poi vabbè. No, mi avete stimolato abbastanza, se non lo sono già, perché lavorando nella sanità e da anni ormai, per fortuna tra poco vado in pensione anch'io, però di esperienza ne ho fatta anch'io. Lavoro nel poliambulatorio di Via Livigno e quindi di territorialità, insomma, ho fatto anch'io dei percorsi. Io volevo riportare tutta questa situazione, tutti questi drammi, queste criticità e incongruenze che non si risolveranno mai, da che cosa partono? Se vi ricordate, almeno c'era la prima legge che è stata fatta della riforma sanitaria, era la 502 del 92, quindi sono passati 30 anni. Da quella legge è iniziato il vero smantellamento, non solo della sanità, ma anche dei contratti pubblici. Si iniziava a parlare di aziendalizzazione. Quindi con l'aziendalizzazione, ecco, è venuto fuori tutti questi percorsi. Del perché si è arrivata a questa situazione è chiaro. Ci sono state poi le varie riforme regionali, da Formigoni a Maroni e adesso, insomma, è stato solo un continuo. È 30 anni che la regione Lombardia comunque subisce questo attacco continuo. Ma il fatto che noi continuiamo in effetti a... possiamo raccontarcela, tutte queste cose le viviamo sulle nostre spalle, non è cambiato niente, la pandemia ha solamente messo più in evidenza e chiaramente peggiorato perché c'è stata l'emergenza, ma non risolverà mai, non si risolverà mai nessun problema. Anzi, questi qua hanno preso più potere, più decisione. Perché? Perché nel frattempo, in questi anni, non c'è stato più nessun movimento dei lavoratori, non c'è stata più nessuna contrapposizione vera, per carità. Noi, come mi ricordo, come abbiamo sempre agito un po' nei nostri posti di lavoro, nelle nostre aziende, abbiamo sempre denunciato e cercare di riportare un po' le cose più in evidenza. Avevamo fatto i coordinamenti degli ospedalieri, parlo di 15-20 anni fa. Abbiamo anche un po' continuato, ma non abbiamo avuto, perché eravamo pochi, perché siamo stati incapaci. Qualcosa ci dobbiamo dire che è successo. E su questo ci dobbiamo ragionare, in effetti, perché alla fine chi ha prevalso il potere, ha prevalso CGIL e CISL e UIL, che hanno continuato in modo scellerato ad accettare tutte queste cose. Ha prevalso la politica, che non c'è nessun movimento, anche politico, partitico, che ha sostenuto o che sia stato in grado di... Perché, insomma, ecco, la situazione generale è questa. Io parlo sulla questione, giusto mi riallaccio alla quella territoriale, non è che non è stata fatta anche in Lombardia questa riforma sul prestito, non come in Veneto, adesso non voglio dare informazioni, però è stato istituito il Prest, è stato fatto un accordo con la SST Nord, perché io lavoro con la SST Nord, con i medici di base che si erano costituiti in cooperative, e 3 anni fa era partito questo progetto per i pazienti per i pazienti cronici. Per i cronici, no? I diabetici, insomma, i cardiopatici, eccetera, eccetera. Ma tutto bello sulla carta, bello fino a un certo punto, ma non è cambiato una virgola. No, cioè, anzi, è successo questo, che nelle liste di attesa dei medici specialisti c'erano una parte riservata a questi medici, a questi pazienti cronici. Ma no, cioè, li hanno, e invece le liste non venivano mai riempite, questo non si è mai capito. Come non si è capito com'è che durante adesso la pandemia c'erano delle liste, cioè, allora, sicuramente non si poteva fare le visite ogni 10 minuti, ogni quarto d'ora, e quindi si dovevano fare ogni mezz'ora, però non si capisce com'è che i medici avevano le liste vuote, vuote. Allora, che è successo? È successo che il privato in questo periodo di pandemia, io parlo come territorialità, come poliambulatoria, abbiamo lavorato pochissimo, pochissimo. Mentre il privato non ha avuto nessuna regola e nessun impedimento a fare quello che voleva. Di certo noi non sappiamo quante visite e prestazioni ha fatto il privato, perché questo non ci è stato dato da sapere, insomma. Ma il privato ha fatto il 60% delle prestazioni in meno nel 2020. Il 60% delle... Tanto è vero, Niguarda, il grande ospedale Niguarda, lo hanno distrutto. Niguarda non ha più fatto nessuna prestazione, pochissime, interventi, niente. I medici, è stato dichiarato ospedale Covid dalla Regione Lombardia, e i medici sono stati dirottati all'ospedale della Fiera. Adesso devono ancora rientrare, medici e infermieri. Tra l'altro, appunto, le vaccinazioni come vengono mantenute? Con il personale sanitario che lavora negli ospedali. Ma in che modo? Perché i lavoratori ancora non si ribellano? Ancora poi non lo so, non è detto. Perché ci sono le briciole? La Regione Lombardia pensa di recuperare le prestazioni con le risorse, come che si chiama? L'area a pagamento si chiama. Cioè la Regione Lombardia dà i soldi agli ospedali e dice: io do 50 euro all'infermiera e 80 euro al medico se viene a lavorare fuori dal suo orario di lavoro a fare i vaccini, a recuperare le prestazioni specialistiche che non sono state fatte. E voi lo sapete, non c'è un'infermiera che ha rifiutato. Sono in coda, anzi, sono in competizione, chi ci deve andare e chi no. Tra l'altro si ricordava appunto la libera professione. La libera professione nella sanità è una cosa schifosa. È schifosa perché non solo viene fatta ed è stata regolarizzata, perché non è che ci riusciamo a contrapporre su questo. Tu puoi fare la libera professione durante l'orario della giornata. Cioè il poliambulatorio è aperto dalle 8 alle 18, tu non sei costretta a farlo dopo le 18, lo puoi fare anche dalle 8 alle 18, l'importante è che è fuori dal tuo orario di lavoro. Questo qui, sapete cosa ha permesso? Che magari occupano degli ambulatori che potrebbero essere usati da medici, da altri medici, no? in giornate istituzionali, però vengono favoriti, e quando spende un paziente per una visita 120 euro, di cui poi non so quando prende il medico, eccetera, eccetera. Ma comunque voglio dire che, e poi chiudo, per carità, che la situazione è talmente, ormai è arrivata a un punto, il cerchio si è chiuso, non abbiamo più da continuare a lamentarci, a fare, qui c'è solo da agire, ma agire su che cosa? Sulla questione regionale, è solo lì che bisogna andare a far battaglia, sulle leggi, su tutto quello che hanno fatto in questi anni, perché se noi non facciamo cambiare quelle regole, è inutile che parliamo della sicurezza, dei contratti di lavoro, lo sappiamo, non contiamo più niente. I delegati, il lavoratore non conta più niente, conta solo CGIL e CISL e UIL che non ti guarda neanche e ti mette la firma. E poi è cambiata anche un'altra mentalità, è questo che bisogna combattere, è cambiata una mentalità di cura, la mentalità di cura, cioè prima il medico lo visitava il paziente, ci parlava, lo ascoltava in qualche modo. Adesso no, esistono i protocolli, i nuovi medici che vengono formati, anche gli infermieri, ma non hanno bisogno di guardare il paziente, hanno bisogno di sapere qual è la diagnosi. Il diabetico, gli fai questi esami, ma quello sai che ha un altro problema, non si può, adesso no, adesso curiamo solo questo. Cioè non viene più visto complessivamente la persona, ma viene vista solo come pezzo. Noi siamo dei pezzi di ricambio, e i pezzi di ricambio che sono più remunerativi. Quelli che sono poco remunerativi non vengono più trattati. Vabbè, chiudo, se no non vado più. Mi siedo, dai. Allora, io volevo solo dire due parole sul Pio Albergo Trivulzio, visto che prima è stato citato, posto che ahimè conosco molto da vicino. Allora, da metà marzo dell'anno scorso tutte le terapie di riabilitazione sono ferme. Mi riferisco soprattutto alle terapie dei pazienti ambulatoriali, degli hospital specialistici. Noi avevamo degli hospital per la riabilitazione urologica, gastroenterologica, diabetologica, che poi quest'ultimo in realtà si era allargato e curava un po' di tutto. Poi avevamo centro diurno continuo, che è praticamente un centro dove le persone vengono prelevate con un pulmino a casa, se hanno bisogno del trasporto, vengono, fanno le terapie, mangiano, fanno il pranzo al Trivulzio e poi vengono riportate a casa. E poi avevamo ovviamente un sacco di terapie di tipo ambulatoriale, sto parlando di fisioterapia, ok? Tutto fermo da metà marzo 2020. Siamo praticamente l'unico posto a Milano che non ha ripreso a fare la riabilitazione. Quando è stato chiesto, vabbè, ma perché a un certo punto non possiamo ricominciare a prendere pazienti ambulatoriali, c'è stato risposto che c'era un problema di sicurezza rispetto ovviamente al Covid, quindi non si poteva. Peccato che siamo diventati un centro vaccinale, ok? Quindi quella che era per esempio la mia palestra per i pazienti ambulatoriali adesso è riempita di gente che viene a fare il vaccino, ok? E ci sono stati dei momenti, noi abbiamo avuto sia pazienti che erano, cioè pazienti, all'inizio abbiamo cominciato con i pazienti fragili, la vaccinazione da una parte e dall'altra parte gli universitari. Quindi gli universitari andavano dove c'era il centro diurno continuo e i pazienti fragili andavano in quella che era la palestra degli ambulatoriali. E ci sono stati dei momenti in cui c'era un afflusso allucinante, tipo 400 persone al giorno con code pazzesche, anche all'interno, tra l'altro, in spazi chiusi. Quindi questo alla faccia della non possiamo garantire la sicurezza magari di pochi pazienti che vengono, rimangono, per dire, magari 5 per volta, 10 per volta all'interno di uno spazio chiuso. Poi su tutti i reparti che c'erano di riabilitazione, invece di dove le persone vengono ricoverate per la riabilitazione, 6 reparti sono chiusi, 6. È stato deciso che mentre prima c'erano alcuni reparti che avevano una specializzazione, quindi specializzazione della riabilitazione respiratoria e cardiologica, dovevano essere chiusi, tutti dovevano saper far tutto, ok? Quindi il pneumologo adesso si trova a fare il medico di reparto e ha perso la sua specializzazione. Se c'è bisogno di uno pneumologo in un altro reparto, deve prendere e andare a dare la consulenza, però nel frattempo deve anche fare il turno nell'ente vaccinale. Quindi, come si diceva prima, super lavoro. Questo per i medici. Per quello che riguarda i fisioterapisti, invece, siccome diciamo più o meno metà del personale era libero professionista, è stato la maggior parte di queste persone sono state lasciate a casa, ok? Quindi paradossalmente noi ci troviamo a lavorare a metà tempo rispetto a prima, mentre prima della pandemia ormai avevamo tutti i tempi contingentati, c'era un paziente dopo l'altro, quindi avevamo anche noi il cosiddetto pazientificio. Adesso per dire, io faccio 5 ore e però ne lavoro 2 e mezza, ok? E il resto devo scegliere dove passarlo, ok? Tra le altre cose, noi siamo sempre l'unico posto, abbiamo tanti primati, l'unico posto che lavora ancora con i DP completi, completi. Quindi cuffia, occhialoni o visiera, FFP2, camice di plastica e calzari. Senza aria condizionata. Io stamattina sono praticamente quasi svenuta perché si suda a 1000 e non so come faremo ad andare avanti. Questo nonostante questa cosa sia assolutamente inutile, perché i pazienti che arrivano sono tutti vaccinati. Il personale è quasi tutto vaccinato. I pazienti che arrivano comunque vengono selezionati, non si accettano pazienti Covid, quindi fanno comunque tutti gli accertamenti prima di arrivare da noi, e da noi c'è la possibilità di fare un tampone a settimana. Quindi almeno toglierci i camici sarebbe il minimo, però purtroppo non si può. E bisogna stare molto attenti a non usare i DP o a fare qualsiasi sgarro, perché c'è un clima pazzesco. Tanto per dirne una, l'altro giorno una dottoressa fisiatra, che praticamente fra una settimana va in pensione, è successo che è andata a trovarla, è entrata nel suo studio una fisioterapista che è appena andata in pensione, ok? È stata beccata, no? Perché questa qui ha fatto il triage ma non aveva fatto il tampone per entrare dentro al trivulzio, perché non puoi entrare se non fai il tampone. Questo anche i parenti e i pazienti che vengono a fare le visite mediche ambulatoriali. Quindi la dottoressa gli ha dato il ben servito prima della pensione, l'hanno mandata in commissione disciplinare perché avrebbe dovuto fermarla, mandarla via e chissà cosa, no? E così, e quindi ha chiuso in bellezza per questa stronzata allucinante, no? Che dire, niente, più o meno questa è la situazione da noi. Ah, tra l'altro da noi comunque ci sono arrivati piano piano dei pezzi da 90 del gruppo San Donato, perché ad esempio il nostro mitico consulente dottor Pregliasco è il direttore del Galeazzi, ok? Quindi c'è tutto un giro che uno può dire, ma chissà come andrà a finire, perché intanto è vero che le vaccinazioni immagino che diano un sacco di remunerazioni, però dal punto di vista della fisioterapia noi stiamo facendo un buco pazzesco. L'altra cosa che mi sono dimenticata di dire è che buona parte di questi altri reparti che sono rimasti chiusi non possono aprire perché c'è carenza invece di infermieri, cioè ogni figura lì dentro ha le sue caratteristiche. Gli infermieri, dopo quello che è successo l'anno scorso, sono scappati a gambe levate, tra l'altro molti erano anche loro liberi professionisti, quindi hanno cercato di andare altrove, ok? Quindi c'è anche proprio una difficoltà ad aprire gli altri reparti. Allora, questo per quello che riguarda il trivulzio, mentre invece volevo dire, per quello che riguarda le terapie domiciliari, non conosco, ve lo dico solo semplicemente così perché mi è arrivato questo messaggio: tutti a Milano domenica 6 giugno dalle ore 15 in Piazza del Duomo, perché c'è questa manifestazione raccolta firme dei protocolli di cure domiciliari. Ecco, sappiatelo così. C'è qualcun altro? Spingo? Cosa spingo? Quindi non so. sono tutti pensionati qua. Ti va bene? Ok. Cosa manca sempre il che fare. Manca sempre il che fare. Allora, innanzitutto avviso tutti, chi non lo sapesse, che domani alle 14 all'Arcipessina di Chiaravalle, vicino Rogoredo, c'è questa assemblea dei lavoratori combattivi che è quella che ha partecipato a quello sciopero di cui parlava Pino prima a dicembre e che deve essere, diciamo, come punto di riferimento. Non ci sono un'assemblea combattiva dei lavoratori aperti senza sigle sindacali, e proprio perché dei lavoratori combattivi bisogna cercare di collegarsi, perché poi alla fine non possiamo pensare, cioè queste cose qui. Io non intervengo perché io sono uscito da 5 anni dagli ospedali, ma sono le stesse cose che facevo io, cioè libera professione, libero profitto, ve ne parlavo già tantissimi anni fa, il percorso è andato avanti, la pandemia l'ha aggravato, però bisogna sempre porsi un problema del che fare. Purtroppo, come dicevo, qualche altro intervento in sanità, sì, è dovuto anche al fatto che adesso c'è il problema della fiducia, eccetera, fanno i provvedimenti disciplinari, ma il settore sanitario era forte un po' di anni fa, oggi non esprime una condizione lavorativa per il quale tu puoi fare un'iniziativa se non dall'esterno, se non con i comitati, se non con altre sigle, con altre, ma dall'esterno, non dall'interno. Non è mai stato un settore forte negli ultimi anni. Io mi ricordo che a Milano, forse parlo di 15 anni fa, c'era un coordinamento degli ospedali molto forte. C'era tutta la zona da Monza a Milano, tutti i grandi ospedali, eravamo collegati in un coordinamento e poi si è persa questa abitudine per vari motivi. Adesso il collegamento che si può fare, perché sennò che fare cos'è? Io per esempio faccio a voi la domanda, perché non c'è qui Medicina Democratica? Perché tutti i comitati intervengono e non si pongono il problema di collegarsi? Perché c'è un problema di riferimento alle istituzioni, c'è un problema di riferimento politico. Perché? Perché se la sanità è di tutti, come tutti dicono, come tutti diciamo, qual è il problema che non si presentano qua? O noi che non andiamo da un'altra parte? Cioè, sono delle questioni che dobbiamo porci. Se vogliamo dare una risposta anche dall'esterno, è chiaro che quello che diceva Pino Gianni sulla galeazza che sta costruendo alla fiera, l'ex fiera, riguarda l'ospedale di Ro che chiude, che probabilmente chiuderà, che oggi è diventato tutto Covid, no? Che sono quelli gli infermieri, i medici che sono impegnati a City Life per fare i vaccini. Quindi ci sono dei problemi grossi, così come il CPS di Ro lo riporta in ospedale dopo tutta la legge basale, cioè di cose, ce ne sono tanti, ma poniamoci almeno un obiettivo minimo. Vogliamo coordinarci tutti quanti e capire un po' che cosa si può fare insieme? Punto di domanda.